noi, come spesso ci capita, siamo stati interpellati dai cittadini che andando ad acquistare le mascherine, proprio perché adesso di fatto diventano un presidio obbligatorio e anche assolutamente, come dire, giustificato per la salute dei singoli e anche la salute pubblica, si sono trovati di fronte a dei prezzi diversi, molto più alti, più che raddoppiati rispetto a quelli che sono stati frutto diciamo di questo accordo che era stato, insomma, da quello diciamo dalla promozione fatta sembrava appunto che fosse un accordo esteso diciamo a tutti i casi. Invece è un accordo volontario, quindi ci possono essere negozi piuttosto che farmacie che continuano con il prezzo diciamo libero, di libero mercato, e quindi molto più alto di questi 75 centesimi. Quindi si può arrivare a prezzi anche di 2 o 3 euro per singola mascherina? Le segnalazioni che abbiamo ricevuto noi ci dicono di sì, sono diciamo meno numerose le segnalazioni sui 3 euro, però siamo arrivati anche a queste punte diciamo estreme. Purtroppo in questo caso, visto che l'accordo non è appunto diciamo vincolante, i cittadini si trovano in condizione di come dire non poter liberamente decidere. Chiaramente possono anche, come dire, uscire dal negozio o dalla farmacia e non comprare nulla, ma si trovano un po' spiazzati di fronte a queste richieste economiche, insomma. Anche perché, essendo obbligatorio, aumenta anche la richiesta, quindi è sempre più difficile trovarne. Sì, stiamo registrando anche queste difficoltà, è un po' più difficile trovarne, questo lascia anche un po' spazio al timore di speculazioni, perché quando si alza la domanda poi purtroppo a volte assistiamo ad una penuria appunto di offerta, e quindi espone anche di più poi al rischio di aumento di questo costo, insomma, perché chiaramente se come cittadino mi muovo, faccio fatica a trovare il prodotto, in questo caso la mascherina, e sarò anche più disponibile quando mi chiederanno magari un prezzo un po' più alto, però riuscendo a trovarle, avendone bisogno, a pagare quanto mi viene richiesto. Quindi sono come ultimo anello della catena, come spesso ci capita, più esposto anche diciamo alle speculazioni stesse. Qualcosa di simile era successo l'anno scorso all'inizio, insomma, della pandemia, quando proprio la speculazione arrivava a chiedere anche 10 euro per una mascherina chirurgica. Temete che si possa verificare lo stesso scenario? No, io credo di no, perché poi l'esperienza comunque ha, come dire, ha fatto il suo corso, e penso che in ogni caso l'offerta di oggi, penso per esempio anche a grandi catene che si sono già spese sul mercato con prezzi anche più bassi dei 75 centesimi. Quindi questi, diciamo, anche meccanismi virtuosi che vengono messi in campo, credo che possano aiutare, e la stessa consapevolezza dei cittadini possa aiutare. Chiaramente però il rischio c'è sempre, e quindi bisogna tenere molto molto alta la guardia, ed è per questo che noi ci aspetteremmo anche, come dire, accordi in questo caso, o prese di posizione un po' più nette e un po' più determinate, soprattutto quando questi presidi, che torno a dire sono a presidio della salute, sono obbligatori, è ancora più importante che ciò avvenga. Quindi anche la comunicazione diciamo istituzionale dovrebbe essere più chiara, insomma, non sì. Far passare sì. Il prezzo come fisso, ma come appunto facoltativo. Esattamente, questo è stato effettivamente un po' il passaggio che ha indotto di più, da un lato diciamo al fraintendimento, e dall'altro insomma anche un po' il nervosismo, nel senso che poi quando ci si trova davanti a una situazione di fatto diversa, chiaramente ci si sente anche un po' gabbati.